Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Доброе утро, товарищи большевики. Вы слушаете Uno Nasano Santo Milan. Uno, nessuno, 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera. Siamo qui alle 9:08 minuti, una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan con voi in redazione Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli. Incredibilmente oggi, che è il compleanno di Carmelo Lauricella, l'hanno è lì che mangia brioche, ha messo qua Gianmarco Ferronato in regia, cioè praticamente è una roba incredibile, incredibile. Vanno pronti con trick e track, bombe a mano per festeggiare Carmelo Lauricella e invece, vabbè, comunque auguri lo stesso. Allora, siamo qui e soprattutto, signori, torna con noi il comandante Mario Calabresi, eccolo qua, buongiorno comandante. Buongiorno, come stai? Tutto bene, tutto buongiorno bene. A tutti. Siamo qui buongiorno per parlare di tante tematiche. Ogni volta che inizia questa trasmissione penso che tu hai la sigla più bella di una trasmissione che ci sia in Italia. È vero, grazie. Non l'ho fatta io, bellissimo. Quindi posso dire, è vero, è vero. Allora, caro Mario, abbiamo tanti temi da affrontare. Parleremo anche di Covid, per carità, solo che io sento un po' quella che è stata definita la Covid fatigue, cioè lo stress, l'angoscia da Covid. Vabbè, dai, però partiamo. Fatigue è anche appunto una cosa in più, lo sfinimento. Lo sfinimento. Cioè, non se ne può più. Non se ne può. Beh, un po' è così. Però partiamo e partiamo da questo, dai. I will not be easy. And it will not be easy. Fammi partire dalla mia conta civica e ricordare che da 44 giorni ci sono 18 pescatori di Mazara del Vallo trattenuti in Libia a Bengasi. Tra l'altro, devo dire, sono 8 italiani, 10 di altre nazionalità. Ma aggiungo questo, io faccio questa conta non per un motivo politico, anzi chi la utilizza motivo politico sinceramente mi fa un po' orrore, nel senso che è una conta civica. E oggi infatti Di Maio, intervistato alla Repubblica, dice prima di liberare Silvia Romano, padre Maccalli, ci avete sentito dire qualcosa? Queste cose, Mario Calabresi, si fanno sotto traccia, quindi io sono sicuro che stiano lavorando alla Farnesina. Faccio questo conteggio, tengo il conto per ricordarlo, semplicemente per questo. Poi c'è il Covid, e improvvisamente è Natale. Caro Mario, è Natale di colpo. Repubblica, Natale a rischio, Il Giorno, Il Quotidiano Nazionale, Natale sotto tiro, Il Giornale, ci giochiamo il Natale, La Verità, ci vogliono rubare il Natale. È Natale all'improvviso. Tu ti sei già organizzato. All'improvviso, mi sembra ieri che dicevamo, oh, ti ricordi, c'erano lo scontro tra Iran e Stati Uniti, il primo giorno di gennaio, mi pare. Poi c'erano i fuochi in Australia, gli grandi incendi, e per il Covid in Cina si diceva che anno terribile questo 2020. Poi sì, diciamo così che è andata molto oltre le aspettative e siamo già a ottobre. Detto questo, io ti devo dire la verità, non riesco ad appassionarmi e neanche a preoccuparmi di per sé per il Natale. Cioè questa idea, oddio, a Natale saremmo bloccati. Perché penso, sì, va bene, ma mancano 2 mesi abbondanti. Vuol dire che se a Natale saremmo bloccati, diciamo che prima di pensare a Natale che saremmo bloccati, stamattina pensavo, ma da qui a Natale se tutto si blocca sempre di più, ma cosa sarà? Ma quanti negozi salteranno? Quanta gente verrà licenziata? Quante attività saranno chiuse? Cioè, non posso dirtela, chi se ne frega se il Natale non si fa. Facciamo il brindisi su Zoom. I grandi pranzi con tanta gente. Cioè, mi preoccupo delle macerie che ci sono intorno. Però ti vorrei chiedere questo, facendo sentire quello che ha detto il virologo Crisanti e anche, se volete, Conte. Posso dire una cosa? Sì. Ti ricordi Crisanti all'inizio? era una specie di oggetto rarissimo, sì. Non parlava mai, adesso... sembrava la Sibilla Cumana. Crisanti ha detto una parola, la si interpretava. Adesso praticamente parla a nastro. Esatto. E soprattutto ti voglio chiedere, ma sentiamo Crisanti, qualcosa sulla comunicazione. Perché per me questo modo di dire così a Natale c'è il lockdown, è meglio fare il lockdown a Natale, per me è lievemente angosciante. Ma sentiamo Crisanti. Ma guardi, un lockdown in quel periodo potrebbe risettare in qualche modo il sistema, abbassare la trasmissione e alla ripresa aumentare la capacità di interdizione sul territorio, cioè aumentare l'efficienza del contact tracing e dei tamponi, perché così come siamo con questi numeri, cioè il sistema è saturato. Eccoci qui, mi è già venuto un po' di angoscia, dobbiamo risettare a Natale, con un lockdown a Natale. Mi è venuta già una pallina in gola che mi ostruisce un po' il respiro. Mario, non lo so te cosa ne pensi. Sì, sì, no, penso a tutto quello che vedo qua. Non so, a marzo tu sentivi dire quel parente, quella persona, quello che conosco, però erano sempre distanti. Adesso col fatto delle scuole, con gli uffici che in parte hanno ripreso, la frequenza con cui senti dire che ci sono persone che si sono ammalate vicino a te si è molto intensificata. Non so, poi magari è una cosa soggettiva, però hai questa sensazione. Sì. Naturalmente adesso anche di persone che ti dicono no, scusami, non ci sono perché devo fare un tampone, adesso dovevo parlare con uno, ma detto sono a fare il tampone. Vabbè, speriamo che ecco, la nuova scusa, devo andare a fare il tampone. Sì. Non ci possiamo vedere, sono fermata la macchina, sì. Sono a fare il tampone. Sono a fare il tampone. No, devo dire, poi leggendo anche la situazione di Milano, che sicuramente preoccupa, poi i dati vanno letti tutti in completo. Sul Corriere della Sera oggi c'è scritto, insomma, i responsabili di Milano dicono i nuovi tamponi, il 92% di questi tamponi positivi sono comunque asintomatici, così per un dovere anche di cronaca. Sì, no, questo è importante, con una cosa però da tenere presente, che lo studio sierologico che è stato fatto sui mesi di sul mese di marzo, se non sbaglio, ci mostra come anche allora, su tutta la gente che l'ha fatta inconsapevolmente, la percentuale poi di chi si ammalava e di chi veniva riconosciuto era molto più bassa. Oggi noi facciamo infinitamente più tamponi, vengono presi subito, per cui la situazione è già diversa per questo, perché vengono riconosciuti e seguiti subito. Allora molta gente purtroppo è morta perché non si sapeva cosa fare e perché la sanità non era in grado di dare risposte. Sì. Per quelle persone che avevano la polmonite bilaterale, che magari avevano 70 anni, gli si diceva stai a casa e facci sapere, e chiamavano, non rispondeva nessuno. Quella è stata una situazione angosciante. Oggi è evidente che non siamo in quella situazione, però c'è un dato: che se riparte in numeri alti, non è che la sanità è cambiata da quella di marzo e da aprile. Sì. Purtroppo da questo punto di vista mi sembra che tutto è andato in vacanza quest'estate. Siamo andati in vacanza noi in una sorta di serena inconsapevolezza oppure rimozione, ma però tante cose che si dovevano fare, ti ricordi che parlavamo, ne abbiamo parlato 100 volte, l'unica cosa che si fa davvero in più sono i tamponi. Però per esempio si diceva le residenze dove mettere i positivi che sono malati lievemente per non tenerli a contagiare tutta la famiglia. Ne vedi una? Ne senti parlare di una? No, ma infatti, no, ma guarda, di questo... Le scuole, ti ricordi, scusa, si diceva, perché poi i mezzi pubblici, la mattina i mezzi pubblici sono pieni, pienissimi. Allora pienissimo. Tu devi stare, camminare con la mascherina per strada, poi stai insieme ad altri 100 sull'autobus. Perché si era detto, facciamo lo scaglionamento, devono fare lo scaglionamento degli orari delle scuole, degli orari degli uffici, dove si può, gli uffici pubblici, scaglioniamo. No, non è stato fatto nessuno scaglionamento. Allora, c'è come sempre una grande responsabilità dei cittadini, che sono quelli che hanno evidentemente fermato l'epidemia in primavera, perché gli italiani sono stati super disciplinati, non dimentichiamocelo. Non è stato un merito del governo, un eroismo di tanto personale medico e una dedizione dei cittadini. Oggi i cittadini... Tanti cittadini sono molto più stanchi, come hai detto tu, e molto più distratti, non hanno più voglia, fanno fatica. Però il contesto è un contesto che non ha sistemato sì. le criticità. Ma guarda, adesso teniamolo lì il Covid, perché poi giustamente ci scrivono molti, troviamo altri temi. Adesso noi parliamo di altro, poi riprendiamo il tema Covid, perché più avanti avremo ospite il professor Cavanna che ci racconterà il caso Piacenza, dove appunto i malati si curano a casa. Ma prima vogliamo introdurre un altro argomento. Vogliamo parlare, io ho preso spunto, ho associato due questioni. Quello che ha detto il Papa domenica all'Angelus, quando ha detto ci vorrebbero, risintetizzo così, più donne nella Chiesa, più donne in ruoli ovviamente che contano nella Chiesa. Certo, vedo poi tutta la vicenda che riguarda la nuova Lady Becciu, è stata definita così, questa manager Cecilia Marogna, manager cagliaritana arrestata, che evidentemente si scopre dai giornali giocava un po', pare, a fare quella vicina ai servizi segreti, ma in realtà si è appropriata di soldi secondo le accuse per fare spese in boutique, in viaggi eccetera. Allora vorrei chiedere intanto alla professoressa Lucetta Scaraffia, che saluto, buongiorno professoressa. Buongiorno. Non sono forse queste le donne a cui il Papa fa riferimento quando fa questo auspicio? Che pensa? No, purtroppo però vedo che appunto questa signora Marogna sembra un'altra Sciauchì. Voi vi ricorderete che c'è stata un'altra donna, sì, diciamo è così, vero. Molto potente, molto chiacchierata, potente chiacchierata nella Chiesa, mentre mancano invece posti veri in cui venga riconosciuto per esempio il ruolo delle religiose. Le religiose nella Chiesa hanno una grande esperienza, sono donne di grande fede, di grandi capacità, conoscono il mondo, a loro non viene mai riconosciuto un ruolo direttivo, diciamo così, un ruolo in cui istituzioni, in momenti dove si prendono decisioni. Quando arrivano le donne in Vaticano sembrano tutte donne, diciamo così, chiacchierate. Forse viene il sospetto che i sacerdoti non abituati a vedere le donne non sappiano riconoscere una donna, insomma, non sappiano capire. Beh, questo è interessante. Questo io per esempio ho sempre avuto l'idea del Vaticano come un luogo quasi inaccessibile. Non so, tu Mario Calabresi sapresti come fare ad approcciare un cardinale, a conquistare la fiducia di un cardinale, a entrare cioè per me intanto una... saluto la professoressa, sì, è Mario Calabresi che la saluta, che è con noi. Grazie. E invece pare che con quattro mail e con dei titoli così discutibili, almeno passatemi questo, si possa ottenere anche delle grandi disponibilità finanziarie. Beh, pare che non sia andata proprio così, ecco. Pare che non sia andata proprio, quella è una versione un po' di comodo della signora, ecco. Adesso lasciamo, non so bene com'è andata, ma pare che quella adesso si sta prendendo come oro colato quello che dice questa signora. Sì. Ora, ecco, io non lo farei, francamente. Vediamo un po'. Però lei ha parlato di religiose, noi ne abbiamo qui una, perché voglio salutare suor Maria Chiara Piccinini, che è con noi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. In realtà dovrei dire Elisabetta Barbara Maria Elvira Piccinini, ecco, questo è il nome. Il nome di battesimo. Barbara Maria Elvira. E quello d'arte è Suor Maria Chiara. Alla Chiesa Santissima Annunziata a Bologna, dove c'è la piccola fraternità di Nazareth, dove ho capito, ho letto su Vanity Fair, fate anche si può dire un esperimento di convivenza tra religiosi e religiose, un prete per la verità c'è. Esatto, è la rappresentanza, diciamo, minima. Un esperimento, nel senso un'esperienza che è comunque un'esperienza, diciamo, che ha un tempo abbastanza consolidato, che per cui diciamo anche per la nostra storia, così l'idea di poter diciamo vivere l'esperimento di essere uomini e donne nella vita, diciamo, di fede, che è, diciamo, la chiamata che il battesimo ha per tutti, perché appunto quello che voi dicevate prima, il Papa chiama una presenza maggiore delle donne, certo, lui dice chiamiamo i laici prima di tutto, che sono la base della Chiesa, no? Nessuno nasce prete o vescovo. E in particolare poi c'è il tema però che tra i laici la maggioranza delle persone anche che frequentano i nostri ambienti sono donne, e quindi forse anche chiedersi come appunto aprire di più a una partecipazione più attiva. Noi abbiamo così più, diciamo, messo a tema questo già da diversi anni, nel senso che insieme da tanti anni. Mario Calabresi, però credo che la forza di Suor Maria Chiara sia quella di dire che è una convivenza proprio alla pari, cioè alla pari uomini e donne, come dovrebbe, come dovrebbe essere. Ho letto l'intervista che ha fatto e due cose mi colpivano. Una, sono curioso di capire, ma dalla parte dei fedeli, cioè sia i fedeli che le gerarchie, questo tipo di esperienza appunto in cui c'è una comunità monastica, in cui c'è un sacerdote e ci sono delle suore, come la vedono? Questa è la prima domanda. E la seconda, ho letto che lei dice spesso il problema non è che non si può parlare, il problema è non essere ascoltati, cioè la voce delle donne non è ascoltata nella Chiesa. Sì. Ma due cose, la prima penso che bisognerebbe chiederlo alle persone, però le dico la percezione che ho io. Noi siamo stati accolti molto positivamente come presenza in un ambito in cui c'era prima comunque una comunità fraterna, perché siamo i francescani, quindi il fatto che fosse una realtà di vita, non di un simbolo, era storia passata. Il fatto che ci siano delle donne è una cosa che è stata accolta molto positivamente, perché la maggior parte delle persone che, appunto, ripeto, frequentano le chiese sono donne e quindi si vedono rispecchiate in un simile, e questo è una cosa che è importante nella vita di ciascuno di noi in ogni ambito, per ogni cosa, per cui devo dire noi siamo state accolte positivamente. Dopodiché non mi ricordo più l'altra cosa, qual era quella che diceva rispetto la voce. La voce, lei può parlare, ma ha la sensazione di essere ascoltata? Sì, ecco, questo dell'essere ascoltati per me è un tema di fondo di ogni tipo di ambiente, di ogni tipo di cosa, non solo della vita ecclesiale. Quindi essere capaci di ascoltare, appunto lei dice un'intervista dove qualcuno mi ha veramente ascoltato, nel senso che si è posto in un atteggiamento attivo, no, di recezione. Questo io penso che sia un tema enorme nella nostra società e del nostro tempo. Penso a una persona come il professor Borgna, che ha fatto lo psichiatra per anni e ha avuto un'attenzione a sottolineare che cosa vuol dire ascoltare. Allora, questo è un dramma, anche nel nostro vivere comune, nella comunicazione, eccetera. Nella Chiesa si vive il tempo che si vivono tutti e quindi c'è difficoltà. Ovviamente il fatto di avere degli ambienti monosessuati, secondo me, ha accentuato, poca esperienza di convivenza e di strusciamento quotidiano anche nei conflitti, perché vuol dire essere diversi, vuol dire anche essere confliggenti, no? E questo c'è un po' un tabù. Però su questo ambiente, forse la professoressa Scaraffia ci può aiutare, se il Papa, che dal punto di vista giuridico è un monarca assoluto, no, dice più donne nella Chiesa, cosa vuol dire questo in concreto? Come lo si potrà vedere concretizzato secondo lei, professoressa? Il Papa già potrebbe fare moltissimo, perché, e non lo fa, la cosa che mi ha stupito molto del Papa, questa più donne nella Chiesa, l'ha messo come intenzione, ricordiamoci dove l'ha inserito, come intenzione di preghiera per il mese d'ottobre. Ora, l'intenzione di preghiera è perché qualcuno faccia qualcosa, ma quel qualcuno è il Papa stesso, perché non lo fa anche senza aspettare le preghiere? Se sei convinto che sia una cosa buona, può farlo, perché in realtà il diritto canonico è molto più aperto di quanto sia la prassi tradizionale della Chiesa. In realtà, a parte che il diritto canonico si può anche modificare, è stato modificato tante volte nel corso dei secoli, ma oltretutto è più aperto ai laici, che sono le donne in sostanza, di quanto non venga praticato poi nella Chiesa. Ora, per esempio, facciamo un esempio: il Papa, dopo un mese che è stato eletto, ha creato quella sua specie di senato di cardinali, vi ricordate che si chiamava C9, C6, che doveva affiancarlo nel prendere decisioni importanti. Perché erano solo cardinali, quindi maschi? Perché non ha inserito le presidenti delle organizzazioni delle religiose? Perché le religiose hanno delle organizzazioni mondiali con delle presidenti che spesso o quasi sempre sono delle donne di grande intelligenza ed esperienza e che hanno moltissimo tantissimo da dire, ma la Chiesa non sono anche loro, anzi sono soprattutto loro, sì. Lo sa che le religiose sono i 2/3 del numero totale dei religiosi, allora perché non è inserita in questo Senato? E se non l'ha fatto allora, adesso che è così convinto che le donne devono stare lì, perché non ne inserisce adesso? Sì. Cioè, quello che tra l'altro lei ci aveva detto varie volte, se fosse, cioè, ci fossero più donne magari alcuni scandali sessuali della Chiesa, mi ha colpito questa analisi che lei ci fece anche qui a questi microfoni, forse qualche scandalo sessuale in meno ci sarebbe stato, sì, perché secondo me coi bambini sicuramente, perché le donne vegliano e hanno gli occhi aperti e forse avrebbero impedito in qualche, non dico denunciando perché la denuncia nella Chiesa non esisteva, però forse intervenendo in qualche modo, io so di casi in cui le donne hanno avvertito i genitori, hanno fatto qualcosa per mettere fine a questi scandali, mentre invece fra gli uomini c'è sempre una sorta di solidarietà, insomma, omertà. Io merda. Mi posso permettere? Sì, prego, prego, suor Maria Chiara. Nel senso che io sono d'accordo con quello che la Lucetta dice, ma un malo metterei, cioè dal punto di vista anche proprio umano e dei processi anche civili, è vero che anche nel diritto canonico si può fare molto di più rispetto a quello che già è previsto, quindi ci vorrebbe un po' di capacità di rischiare, diciamo, o comunque di esporsi, cosa che non è molto diffusa nel nostro mondo, anche civile. La seconda cosa che direi è che il diritto da sempre, ma questo è uno dei principi fondamentali del diritto, cioè la consuetudine viene prima della norma. Le norme vanno a sancire ciò che le consuetudini hanno fatto. Allora che cosa succede? C'è una rigidità di ciascuno di noi a cambiare abitudini. E questo lo vediamo su tutte le cose, no? Le mascherine, non mascherine, su qualsiasi tipo di situazione. Certo. Quindi non cambieranno mai le norme. Perché il Papa dice iniziate i processi, appunto. Certo mettendo cose diverse, ma non è automatico, come dice la Lucetta, mettere una donna in mezzo ai cardinali. Non perché non si può, diciamo, come regola in assoluto, ma perché come si cambia quando si è rigidi? Cioè, questo sì. Io vi devo interrompere un attimo perché devo dare un attimo una notizia con una breaking news e con la nostra Elisabetta Fiorito. Attenzione. Breaking news. È morta la presidente della regione Calabria, Iole Santelli, aveva 51 anni, era ammalata da tempo, era stata eletta come presidente della Calabria il 17 febbraio 2020, deputata di lungo corso di Forza Italia, ci lascia a 51 anni, queste le ultime notizie, poi ci saranno nel GR. Ecco, insomma, io nel ringraziare professoressa Lucetta Scaraffia e suor Maria Chiara Piccinini e caro Mario Calabresi, insomma, è piombata in redazione questa notizia, è davvero, davvero tristissima, insomma, della scomparsa del presidente della regione Calabria, e dovevamo dare questa notizia in tempo reale. Ovviamente poi vedremo nel corso della giornata. Però tanto è. Caro Mario, noi ci dobbiamo fermare un attimo per la pubblicità. Tu rimani con noi se puoi. Sono qui. Tra poco torneremo sul tema Covid, nel senso che avremo il professor Cavanna che ha messo a punto quello che secondo alcuni giornali è stato considerato il metodo Piacenza. Metodo Piacenza, cioè curare sempre più a casa e prontamente i malati con delle unità mobili di ossigeno, con delle TAC pneumotorace fatte a casa, proprio per evitare quell'ingolfamento degli ospedali. Vediamo se questa può essere una linea applicabile a tutta la nazione tra poco. Ora è ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Yeah. Allora, siamo qui alle 9.35 minuti con Mario Calabresi, certo, eccoci. Cioè, tu, quelli ti hanno scritto, basta parlare di Covid, parliamo d'altro, e tu hai fatto la cosa più alta culturalmente che abbia sentito in radio negli ultimi 10 anni. No, ti ringrazio. Il tema della donna nella chiesa. Insieme alle allora ospiti. Le ospiti. Un tema serio. Ecco, le ospiti. No, ma tra l'altro, guarda, sono arrivati messaggi a dire: mettiamo Lucetta Scaraffia e suor Maria Chiara Piccinini, presidente del consiglio e non lo so che altro ruolo. Perché c'è sempre questa cosa, quando ci sono delle persone che dicono cose profonde, mettiamole al ministero. Secondo me è il modo per rovinare. Il Consiglio Vaticano. Sì, esatto, diciamo male. le papesse. No, va bene. Adesso parliamo un pochino di Covid, perché è inutile, ci si può girare intorno, ma poi il tema c'è. Detto che, ripeto, poi Mario, c'è questa notizia che sicuramente terremoterà anche la situazione politica, è una vicenda tragica. Abbiamo sentito la morte del presidente della Regione Calabria questa notte, Iole Santelli. Io non immaginavo, non sapevo fosse malata. Sì, la notizia sì. Sembra sapere che lo fosse. Allora, le notizie parlano di un malore nella notte, questo ha detto il sindaco di Cosenza, Mario Chiuto, anche se Iole Santelli aveva un cancro da anni, ma questo insomma non l'aveva mai, come dire, detto in maniera pubblica tante volte, però lo aveva dichiarato. Comunque vedremo. Allora, vogliamo salutare il dottor Luigi Cavanna. Professor Cavanna, lei dirige il Dipartimento di Oncologia e Ematologia alla USL di Piacenza. Buongiorno, grazie di essere qui. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. C'è anche Mario Calabresi che la saluta. Sì, buongiorno. Professor Cavanna, si è parlato di metodo Piacenza, nel senso che lei ha detto, lei ha trattato 300 pazienti, se ho capito bene, e con l'approccio di dire non dobbiamo guardare all'ospedalizzazione, ma cerchiamo di intercettare il prima possibile questa malattia, curiamoli a casa con dei reparti che intervengono a casa, e questo è il modo più efficace per sconfiggere questo virus. L'ho riassunto bene il suo metodo, così è stato definito? Ha riassunto benissimo. Guardi, se posso, una riflessione proprio con voi e col pubblico. Covid-19 è una malattia infettiva, è una malattia virale. Mm-hmm. Questa premessa è doverosa, è ovvio che tutti lo sanno, ma se noi pensiamo di curare una malattia infettiva, una malattia virale, soltanto in ospedale, credo che sia un errore strategico. Perché la malattia virale è estremamente diffusiva, mm-hmm. e perché la malattia virale più precocemente viene trattata, quando è necessario trattarla, per trattarla intendo intervenire con le medicine, più l'esito è favorevole. Efficace, certo. Ora, cioè questo è un presupposto davvero che voi direte, ma se noi sentiamo la televisione, leggiamo i giornali, pensiamo al mese fine febbraio, a marzo, tutto era concentrato sugli ospedali, aumentiamo la terapia intensiva, aumentiamo i posti letto, aumentiamo, apriamo nuovi, per l'amor di Dio, va bene, però cerchiamo. Invece lei dice magari aumentiamo le strumentazioni per fare le TAC pneumotorace a casa, aumentiamo le unità mobili di ossigeno e portiamoli a casa. Sì. Un attacco a casa sarebbe improponibile, ma invece c'è uno strumento molto facile che è l'ecografo. L'ecografo. Ci sono ecografi palmari che si possono tenere nella tasca della giacca, si va a casa e l'ecografia del torace ha un'alta sensibilità nell'evidenziare lesioni di tipo infiammatorio interstiziali, ovviamente in un paziente sintomatico e in un ambiente familiare in cui vi sono stati malati già con Covid. La nostra procedura era la seguente: il paziente ha febbre, tosse, si chiama o chiama il medico di famiglia, sì. Il quale ci chiama, si va a casa con l'ecografo, possibilità di fare il tampone, ma soprattutto lasciare le medicine in loco, che iniziava subito prima del tampone, e veniva monitorato in remoto con un saturimetro che veniva lasciato e tutti i giorni, sì, 2-3 volte al giorno, si sentiva il paziente come era il suo stato, sì, se mangiava, se andava in bagno, se prendeva i farmaci, se aveva effetti collaterali. Ci si può chiedere, non so, Mario Calabresi, se la sanità pubblica ha i soldi anche per, perché immagino che questo preveda... È meraviglioso sentire questo racconto, perché è, come dire, la sanità immaginata che vorremmo, e allora, esatto, sapere che da qualche parte esiste è rincuorante. Complimenti. E c'è una cosa, che questo qua è un po' il problema, è il modello. Io non credo che sia una questione di soldi, è una questione di modello. Si era scelto un modello, per esempio abbiamo parlato a lungo in Lombardia, di un modello che concentrava tutto sugli ospedali, sulle eccellenze negli ospedali, che sono eccellenze, riconosciamolo, non è che non lo sono, e si era molto trascurata, anzi smontata, la sanità di territorio, i medici di base, eccetera eccetera. Oggi invece vediamo che bisogna ritornare a un modello che, in cui appunto non si converge tutti sull'ospedale, ma è l'ospedale che va a casa. Perché io non so se poi alla fine, lo chiederei al professore, ma i costi tra quello che propone lui e il fatto di andare in ospedale sono così diversi? Ma guardi, i costi sono ridotti quando i pazienti a casa, sono ridotti a Piacenza, nella nostra realtà, ma penso anche in Lombardia, poi in altre parti dell'Emilia Romagna. Poi c'è stato, guardi, vado a memoria, ma penso di prenderci, l'11 marzo il Ministero ha messo in campo le cosiddette USCA, unità continuità assistenziali, unità speciali continuità assistenziali, ma l'importanza non è tanto che il medico con l'infermiere vada a casa del paziente, può fare visitarlo e basta, e fa la nota della spesa, dire c'è bisogno di questo, questo e questo, e non risolviamo il problema del paziente. Se il medico e l'infermiere vanno a casa con un minimo background di conoscenze, con un piccolo ricovero che costa 9.000 euro, poi ci sono tante donazioni che siamo riusciti a comprarli proprio con le donazioni, va a casa con i sacchettini con dentro i farmaci, fa la diagnosi, fa il tampone e lascia lì le medicine. Anche perché lei ci conferma, professor Cavanna, che l'ospedale, purtroppo per l'alto numero di persone, eccetera, è anche un luogo di rischi di contagi, di diffusione di malattie. Guardi, davvero, ma il punto cruciale è la cura precoce. Io sono d'accordissimo col professore Risch di Yale, mi trovo in perfetta sintonia. La idrossiclorochina, oggi messa sotto accusa, funziona? Viene data subito entro 3-4 giorni. Se il malato sta a casa 15-20 giorni, poi quando non respira più, poveretto, arrivi in ospedale con i polmoni ormai consumati, è tardi. No, ma infatti, perché un punto non l'abbiamo detto, Mario Calabresi, il professore prevedeva questo protocollo Piacenza con l'individuazione subito al primo sintomo di andare a casa e il protocollo dare l'idrossiclorochina, che poi è stata in alcuni protocolli definita non efficace, ma lei, professor Cavanna, ci sta dicendo non è efficace se si attendono, non so, adesso dico 3-4 giorni, ormai la situazione è un pochino più aggravata, ma se si interviene all'inizio invece ha ancora una sua efficacia. Esatto, è proprio così, guardi, è veramente così. Poi, tornando al discorso delle spese, questi trattamenti, guardi, ci vuole un'auto, avevamo una panda, due persone con l'ecografo, l'idrossiclorochina costa 4 euro il generico per una scatoletta che si cura due persone, due pazienti, e il tampone non è che ci vuole un ovviamente i dispositivi da cambiare per entrare nelle case, ma questi si usano anche in ospedale, quindi è proprio un cambiamento di strategie, di mentalità, cercare per i pazienti che ne hanno bisogno, perché per fortuna la maggior parte dei pazienti con Covid oggi sono asintomatici, ma chi ne ha bisogno cominciamo a curarlo prima. Sì. Per la cronaca, sui 300 pazienti, se non sbaglio, solo 15 alla fine hanno dovuto ricorrere a un ricovero e tutti gli altri sono guariti. Ma anche questi 15 qui sono tornati a casa. Diciamo quei 15 sono dovuti andare in ospedale nonostante l'inizio delle cure, però poi si sono salvati. Non so, Mario Calabrese, effettivamente è un po' l'idea della sanità, no? Col dottore che ti viene a casa, ti cura, che sembra lontana nell'Ottocento ormai, in realtà forse fino a 30 anni fa, erano 20 anni però fa. Però la senti e ti appare modernissima e tranquillizzante, sì. Perché quello che c'è, perché sappiamo il caos degli ospedali, e poi il timore qual è? Che oggi quando si dice ma vabbè, ma per il momento sono occupati solo il 20%, il 30%, il 40% delle terapie intensive o dei posti letto negli ospedali, eccetera eccetera, ma ci ricordiamo però, allora diciamo va bene, mancano tanti, ma mica esiste solo il Covid. Ci ricordiamo, certo, quanto gli ospedali prima erano completi tutti i giorni nella normalità, sì, di pazienti malati di tutte le altre patologie, patologie che oggi vengono ritardate, trascurate. Una delle cose che sta accadendo sono le persone che hanno sviluppato in questo tempo, per esempio, dei tumori, hanno problemi cardiaci e altro, ma che non hanno trovato poi la possibilità, oppure hanno avuto paura. Il professor Cavanna, che quindi, proprio si occupa di oncologia e di ematologia, lo sa. Di spostare, di lasciare i pazienti che possono essere curati a casa e non in ospedale, lascia anche l'ospedale a disposizione di tutte le altre patologie, perché sennò sembra che non esista più nulla. Arriva un messaggio: il metro Piacenza non permette di deviare, tra virgolette, i finanziamenti della sanità. C'è sempre giustamente anche una fase di complottismo, nel senso a dire ma così non si possono rubare soldi, caro professor Cavanna. Adesso la giro a lei, poi dopo faccia. Non voglio pensare male, ma il punto davvero cruciale, e torno ad essere molto serio, io faccio l'oncologo, ma il problema che viviamo come medici e tanti pazienti su tutto il territorio nazionale è che rischiamo di ritardare gli interventi chirurgici per i tumori all'intestino, alla mammella, al polmone, e questo davvero diventa drammatico. Quindi non dobbiamo far la guerra fra poveri, ma se un paziente con Covid può essere curato a casa, perché aspettare che si aggravi e curarlo in ospedale? Sì. Ma veramente, guardate, io questo non ci dormo la notte. È veramente un cambio di prospettiva, dice. Il dibattito invece è tutto a dire aumentiamo i posti, che tra un po' si saturano le strutture sanitarie, e invece lei dice ma no, interveniamo subito con delle strumentazioni anche meno costose e interveniamo a casa. Noi intanto la ringraziamo, Luigi Cavanna, grazie, direttore del Dipartimento di Oncologia e Ematologia a Piacenza. Andiamo un attimo al traffico, guarda che è arrivato anche Leonardo Manera. Bravissimo. Caro Mario Calabresi, bravo, no? Cavanna, veramente bravo. Allora mi devo fare un passo indietro. No, è qua, già, lascia stare che già è qua e dice non mi volete, non entro in studio, lo so già, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Ciao, questa cosa del Natale chiuso c'è da tempo. Trenitalia normalmente mette in vendita i biglietti 3 mesi prima. Se voi cercate i biglietti sulle lunghe percorrenze, che ne so, Milano-Roma, Milano-Napoli, vedete che si possono comprare solo fino al 12 dicembre. Siccome se andiamo avanti così, sicuramente ci saranno più persone positive che persone, diciamo, negative, e quindi si andrà al paradosso. Andremo noi che siamo negativi in casa in quarantena, in protezione. Levate sta campanella del tin tin tin tin tin tin della borsa, la roba non si può sentire. Al mattino uno c'ha la radio qua, uno che appese appena sveglia, pam pam pam pam pam pam. Ma come, è la sigla preferita dal nostro, guarda, Leonardo Manera. Questa, ecco, è una mia vecchia campagna. Io è un anno che dico di cambiare la sigla della borsa, che è veramente insostenibile e fastidiosa. Ha ragione l'ascoltatore, soprattutto al mattino. Non capisco perché la direzione di Radio 24, anzi l'amministratore delegato, il signor Cerbone, del gruppo. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Avete dei dubbi in cucina? Chef, la cucina è tutto un dubbio per me. Però posso mandare dei WhatsApp vocali al 349-239-0191. Per lo chef Oldani, e l'autore dell'SS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli. 80 ricette, tutte per voi, per qualsiasi occasione. Ce le mangiamo tutte e 80. Mangia Come Parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Avete qualche numero di quante persone infette da Covid ha tracciato Immuni? Io ho sentito dire qualche numero e sembra proprio roba da scherzi a parte. Parlate per convenienza, se non chiudono almeno a metà le scuole, poi ci ritroviamo che dobbiamo chiudere tutti, come è successo. Stupendo questo, parlate per convenienza. Cosa vuol dire la convenienza? Sì, la convenienza di mettere la scuola al centro del mondo di qualsiasi società. Quale sarebbe la convenienza? Tu sei pagato dalle scuole? Beh, qualcosa mi danno, sì. Il Ministero dell'Istruzione. Tu vai alla radio, sostieni l'apertura delle scuole che rimangono aperte. Del ministro? Azz, non riesco a dirlo. Vabbè, ragazzi, però. Mi danno 5 euro a settimana. 5 euro a settimana. Sempre meglio di niente, no? Serve per arrotondare in questi periodi complicati. Ma io voglio dire all'ascoltatore che comunque il lockdown arriverà lo stesso, perché ce lo stanno facendo capire, no? Due giorni fa diceva anche il Premier, diceva al momento attuale escludo il lockdown, escludo. Adesso il titolo del Corriere di oggi era non escludo più il lockdown. Vabbè, hanno aggiunto non adesso. Sì. Quindi vuol dire era che facile ci stiamo... anche come titolo, escludo il lockdown, non escludo anche il lockdown. Anche mi dicevi il governatore Fontana. Sì, il governatore Fontana due giorni fa, ma forse Gianmarco Ferronato lo può recuperare. Aveva detto non voglio, abbiamo dato l'altro ieri, ma io infatti l'altro ieri ho detto al terzo, ho mandato nell'ordine Conte, Fontana e Boris Johnson, tutti a dire no lockdown, io ho detto al terzo politico che dice no lockdown in maniera perentoria, io comincio a dire ci sarà, sentite due giorni fa Fontana, due giorni fa. Quello che è certo è che certo. Io chiederò che non si parli neppure di un altro lockdown. Due giorni fa, adesso dice non possiamo prevedere cosa. Quello che è certo, ha detto, quello che è certo, evidentemente era certo nel momento in cui da un giorno diceva. All'altro? Sono passati due giorni, adesso non da esagerare. Da due giorni all'altro? Due giorni sono serviti, sono stati sufficienti per cambiare la certezza e impossibilità. Possibilità. Del resto hai sempre detto anche tu che quello che dicono i politici vale per il momento in cui... Questa è la legge di Gianfranco Rotondi, ex ministro, dice guardate che un politico, quello che dice un politico vale per il momento in cui lo dice. È immanente. Ma io... aspetta, dopo ti arrabbi. Senti questa, in Russia è aumentato il numero di morti, un numero mai successo di morti. Ma e ieri qualcuno diceva, ma il vaccino, ma io per primo, attirandomi molti strali di persone che dicono, cos'hai contro la Russia? Non è che ho niente contro la Russia, ma quando è uscita la notizia del vaccino russo che Putin avrebbe e l'ha somministrato a sua figlia, di cui non si sa più nulla, peraltro, scherzo. Ma io ho detto, ma non mi farei mai inoculare quel vaccino, ma perché non si è mai sentito di un vaccino trovato in 3 mesi. Ci sono dei protocolli, come dire, come minimo hanno saltato qualche fase di sperimentazione, no? È una questione matematica. Ma in questi tempi tutto va più veloce di una volta. Sì. Anche il vaccino. Cosa va volevi più veloce. Dire prima? Che noi, io anche personalmente, tutti noi cittadini, secondo me, saremmo anche disposti a fare qualsiasi sacrificio, purché... qualche volta alcuni politici dicessero ho sbagliato. Cioè, per esempio, ho sbagliato a non organizzare i trasporti, ho sbagliato a non mettere i malati nell'RSA, ho sbagliato a proibire le autopsie. Cioè, se ci fosse questa missione di responsabilità, anche noi ci prenderemmo più volentieri e faremmo tutti i sacrifici. Invece sta roba qui, no, mai. È sempre colpa della movida, sì. È sempre colpa dei cittadini, è sempre colpa di chi va in discoteca, è sempre colpa degli assembramenti. Vedi cosa succede. Arzano. Alcune decine di commercianti in questo momento stanno bloccando una strada per l'accesso al centro di Napoli per protesta contro il mini lockdown scattato da oggi ad Arzano. Poi la gente comincia ad arrabbiarsi e non sto dicendo che facciano bene, però è il momento del tuo monologo. Volevo parlare ancora un po' per conservarlo. Prego, ma inizia Gianmarco a mettere la sigla, che così... Allora, alleggeriamo un po', va. Nel nuovo DPCM, che dovrebbe essere più o meno il 18° se non sbaglio, si proibisce la possibilità di praticare il calcetto, uno dei passatempi preferiti dai maschi italiani. Se da un lato capisco e comprendo il dispiacere di chi non potrà più cimentarsi in modo amatoriale nello sport più popolare d'Italia, devo anche dire che la sospensione del calcetto è utile per prevenire non solo il contagio da Covid, ma anche tutti gli altri problemi che possono presentarsi quando ci si cimenta col pallone, soprattutto da una certa età in avanti, diciamo dai 50 anni in su. Sì, perché c'è gente che oltre i 50, come me, che ne ho 53, si ostina a voler praticare sport, ignorando, come già altre volte ho detto, che lo sport è sempre fonte di guai, ma più di tutti il calcetto. Succede perché quando un maschio vede un pallone rotolare, a prescindere dall'età che ha, vuole dimostrare di essere un calciatore a livello di Ronaldo e di non essere arrivato a quei livelli solo per pura sfortuna. E allora dimentica l'età, dimentica gli acciacchi precedenti, mentre la sua testa gli dice corri, scatta, contrasta, tira. Non importa se tutti gli altri organi del corpo, il cuore, il fegato, la milza, i polmoni, perfino la cistifeglia gli urlano lascia perdere, rallenta, rinuncia. Ma i comandi che partono dal cervello, o meglio la parte emozionale del cervello, arrivano un attimo prima di quelli che arrivano dal resto del corpo. Allora il cinquantenne si lancia in tentativi di prestazione devastanti. Di solito il cinquantenne che gioca calcetto entra in campo senza riscaldamento, fa una corsetta a tre all'ora e poi non vede l'ora di posizionarsi per il calcio d'inizio. Spesso però non riesce neanche a cominciare la partita perché durante il riscaldamento dà un gran calcio alla palla e che gli causa uno strappo o uno stiramento tra le risate dei compagni. Ma il bello succede quando comincia la partita vera. Il cinquantenne tenta uno scatto, ma si accorge che qualsiasi tentativo di corsa, oltre a fargli sobbalzare la pancia su e giù, gli causa anche una tachicardia mai sentita prima. Però il cinquantenne non vuole comunque rinunciare alla partita e quindi passa il resto della partita con una mano sul collo per misurare il battito del cuore, fermandosi solo se le pulsazioni arrivano oltre i 300. Poi c'è il problema dell'articolazione della cartilagine che lentamente si va consumando. Il cinquantenne ormai non ha più cartilagine, negli anni si è consumata come il battistrada le gomme del suo SUV, solo che il cinquantenne non ha mai fatto la revisione e non ha messo altra cartilagine nel corpo, anche perché non si può, non c'è la possibilità. E così il cinquantenne, esaltato, cerca inutilmente la corsa mentre le ossa del ginocchio, sfregandosi tra loro, gli provocano fitte atroci. Ma lui resiste perché prima di entrare in campo si è ubriacato con gli amici e non sente più di tanto il dolore. Finché arriva il momento del contrasto di gioco, il cinquantenne tenta un tackle come avrebbe fatto 30 anni prima, ma nella foga dell'intervento perde la caviglia in un'altra parte del campo e si frattura il malleolo, che richiederà ingessatura di 45 giorni e assunzione di anticoagulanti, vista l'età. Proibire il calcetto per un po' limiterà probabilmente la diffusione del Covid, ma soprattutto determinerà meno affollamento nei reparti ortopedici degli ospedali. In fondo bisogna sempre vedere il lato positivo, anche nelle situazioni e nelle giornate più cupe e plumbe come queste. E buona partita! Si può ancora andare a vedere quella dei figli. Sì, Giuseppe da Roma, buongiorno. Tra l'altro devo dire, Elisabetta Fusconi mi ha rubato la copia del Corriere. Volevo citare una roba che Gramellini ha detto, ma hai fatto un furto! Giuseppe da Roma, prego intanto. Giuseppe da Roma. Sì, buongiorno a tutti. Prego. Buongiorno a tutti. Io ho una soluzione, anche se poco attuabile. Ladra, ecco qua, no? Allora, diceva Elisabetta Fusconi. Prego. Per ogni negozio che chiude, attività che chiude, un dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, se ne sta a casa. Di lì a cascata tutti i ministeriali, di lì a cascata tutte le persone che lavorano nelle compartecipate, chi prende i soldi dallo Stato. Secondo me è una buona maniera per far fare le cose fatte bene. Ma perché? Che, va bene la provocazione, ma già voglio dire, sono hanno aumentato lo smart working per i dipendenti pubblici. Non... E qui parliamo di attività che chiudono, però non di smart working. Sì, sì. Cioè, stanno a casa, nel senso, cioè, li mandiamo a casa. Cioè, No, stanno, nel senso, li licenziamo. Ah, li licenziamo, non capivo questo. Stanno a casa, pensavo lavorassero da casa. Dice, per ogni attività che fallisce, licenziamo un dipendente. Vabbè, insomma, è una provocazione che raccogliamo, Giuseppe da Roma, per quel che è. No, perché tu hai citato gli sport da contatto e oggi Massimo Gramellini ha visto la lista di tutti gli sport da contatto che sono stati vietati. Sono intanto 130, perché per esempio è stato vietato il sepatkakrav. Sì, beh, io l'ho praticato. Che cos'è? Sì, adesso è inutile che stai qui a spiegare una cosa che conoscono tutti, mi sembra perfino... Ah, invece facciamo invece un po'... È una specie di hockey, su ghiaccio. No, è una lotta asiatica, ma soprattutto la sistrumpa. No, io ti giuro, sistrumpa, che pare la sastrumpa o sistrumpa, la lotta dei sardi, cioè una lotta tradizionale sarda. Allora, ci sono dei, immagino in Sardegna, ci sono dei praticanti della sastrumpa. I sastrumpisti. Sastrumpari, ci possono chiamare, vorrei trovare un praticante, immagino dalla Sardegna, se ci chiama gentilmente 800 24 00 24, della sistrumpa, S'istrumpa, sistrumpa. Ci spiega le regole, la storia, sono incuriositissimo da questa attività. Ora, Elisabetta Fuscone, ti puoi riprendere anche il Corriere, non mi ricordavo il nome della sistrumpa e della seta prav lì asiatica. Dai, andiamo al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10-19 minuti. No, scusate, ma sono attratto della sepatkakrav. Non è una lotta, è una specie di pallavolo con i piedi. Quello che avevo detto io. Che si fa in Asia, ma fanno delle acrobazie incredibili. Mentre vorrei sapere tutto della sistrumpa, se la lotta sarda, se esiste una federazione. Insomma, si facciano vivi i praticanti della sistrumpa. 10-19 minuti. Adesso, caro Gianmarco, ripartiamo da Michele Emiliano. Si può fare a meno di festeggiare forse una comunione, una cresima, e per qualcuno può essere già un dolore. Ma un matrimonio che non ha un festeggiamento non è propriamente una cosa superflua, è un elemento fondamentale di un momento decisivo della vita nella quale due persone si uniscono tendenzialmente per sempre e hanno bisogno di avere vicino tutte le persone che sentono care. Se tu gli interrompi questo processo senza gestirlo, questo onestamente è un colpo duro che si poteva evitare con un po' più di prudenza. E noi l'abbiamo chiesto come regione. Leonardo Manera, nel preparare questo scampolo di trasmissione abbiamo pensato anche a te, alle tue massime, la tua massima che qui... L'amore finisce sempre comunque, ecco, dicevo. L'amore però sai che a me piacerebbe invece sposarmi, adesso sono entrato nell'ottica che prima o poi mi piacerebbe sposarmi... Ma con una qualunque. Con l'abito bianco. Mi piacerebbe indossare... Sì, io vestito di bianco? Sì, tutto di bianco, l'abito bianco, sposarmi. E procedere verso l'altare con la mia band, il gruppo degli inadatti che suona, così anche solo per un giorno, come fanno molte persone, perché molte persone... Ma cosa vuol dire solo per un giorno? Cosa vuol dire? Cioè che è una farsa? Allora, a Las Vegas, allora, no. Puoi andare a Las Vegas, ti puoi anche mettere i capelli di Elvis Presley. O non è vero che molte persone si sposano, soprattutto donne devo dire, si sposano per il giorno della cerimonia, perché vogliono vivere quel giorno che molti dicono essere... il più bello della vita, diciamo, io non lo penso così, però diciamo di sì. È vero che molte si persone fa le domande e si dà le risposte, sì, stupendo. E comunque sottolineo che il signor Emiliano condivide la mia posizione, quello che ho detto ieri, come ho detto calabrese. Che queste cose che sembrano futili in realtà sono momenti identitari. Se tutti i politici, tutti i giornalisti condividono quello che dico io, mi candido. Avrai 200 voti dei giornalisti. Vogliamo salutare Barbara Mirabella, che è un event manager nel settore dei matrimoni da più di 20 anni. Buongiorno e benvenuta Barbara. Buongiorno, grazie. Parte dell'associazione Italian Wedding Industry, che è nata durante il lockdown per tutelare gli interessi e la sopravvivenza di questa industria legata ai matrimoni. Allora, non le chiedo del desiderio di Leonardo Manera di vestirsi di bianco almeno. Beh, ma ci sarà qualche uomo che si veste in bianco? Non è mai successo. No, succede. Succede. Io vorrei vestirmi in bianco come simbolo di purezza, quantomeno interiore, che io rappresento in toto. Sì, va bene, in un momento di autoesaltazione. No, in realtà il tema è molto serio, perché tra le cerimonie innegabilmente più colpite ci sono i matrimoni. Ora è un periodo in cui i matrimoni sono un po' scarni come stagione dell'anno, no Mirabella? Non è proprio... Beh, lo sarebbero stati qualora non avessimo perso i 6 mesi precedenti. Già è vero, perché sei stati per l'attenzione che date a questo settore. Noi siamo davvero scioccati da questo DPCM, una filiera che pesa 700.000 solo di lavoratori stagionali, che pesa 1 milione di occupati, che pesa davvero credo qualche punto importante del PIL. Quest'anno sono stati programmati 220.000 matrimoni e 210.000 italiani e quasi 10.000 stranieri. Il problema non è non avere a cuore la salute, ci mancherebbe, la salute pubblica è un momento molto molto difficile per il nostro paese, per il mondo intero. Il problema è un DPCM che viene dato così di notte, quasi come una roulette russa, tirando a caso sui codici Ateco. Sì. Questo è un settore serio, un settore che ha una ricaduta sui territori importanti. Noi, non è un caso che dalla Sicilia sia partito un movimento così imponente, proprio perché la wedding industry, la event industry, quindi la struttura degli eventi, ha una ricaduta sul sistema paese enorme, perché è una filiera. No, ma guardi, ieri abbiamo avuto il presidente dell'associazione del banqueting e del catering, che ovviamente è associato in qualche modo un evento, vuol dire che, e anche loro dicono: ma noi abbiamo fatto di tutto per adeguarci alle norme, così strozza, cioè fate prima dire questo settore deve sparire. Io dico che bisogna avere il coraggio di usare la parola lockdown per questi settori. Non puoi obbligare le imprese a rimanere aperte affinché tu non mi paghi la cassa integrazione, non mi dai il paracadute per salvare o per con 30 invitati. Mi costringe a rimanere aperto per cosa? 30 invitati non è un evento, perché solo i parenti, lasciando stare i sei dei 7 nani che sono previsti, è chiaro che in una famiglia media italiana, diciamo, sposo e sposa avranno minimamente 4 parenti a testa, come dire, la festa è fatta. Allora abbi il coraggio di dire lockdown, abbi il coraggio di portare non solo la chiusura. Io ti rispetto se mi porti anche la soluzione. La soluzione non è lasciare le celle frigorifere pronte per i matrimoni di ieri, di stasera, per le feste di compleanno, per le cresime, per il 40esimo, per il 50esimo, per la laurea. Lasciare i fiori tagliati nelle celle frigorifere che erano pronte per addobbare i tavoli. Adesso non voglio fare degli esempi figurativi, ma il tema è: non si lascia una decisione del genere di notte. Il nostro governatore siciliano Musumeci, così come sono lieta di sentire anche del governatore Emiliano, dico, si sono immediatamente resi disponibili a un dialogo su un tema che è molto vivace, specialmente al sud, ma immagino in Toscana, dico, i luoghi simbolo del wedding, no? Che ci sono in Italia. Non si può pensare di lasciare la gente a casa senza spiegare però, qual è la soluzione. Certo, però si è parlato di questo rimborso, si è parlato di, non so se un fondo per tutti coloro che avevano organizzato il matrimonio per quest'anno e verranno, non si capisce bene come, risarciti. Ma guardi, io credo moltissimo in queste comunicati stampa, ma non credo nei soldi del Monopoli. Noi abbiamo un... No, ma poi se uno si vuole sposare, si vuole sposare, cioè adesso va bene. Noi abbiamo da mettere insieme due cose. Intanto il sentimento della gente che doveva festeggiare, qualunque festa, ribadisco, le abbiamo citate poc'anzi. Quindi questi vanno rispettati e i consumatori vanno assolutamente tutelati. Ma dietro ci sono centinaia di migliaia di euro che sono sfumati in un secondo. Dopo un minuto dalla comunicazione del DPCM, tutti i ristoratori, tutte le ville per eventi, tutti gli alberghi, tutti i fotografi, tutta la gente che fa musica, tutti i wedding planner hanno ricevuto le disdette. Ieri sentivo un giornalista che diceva: scusi, ma perché lei non glielo apre la villa per 30 persone? Perché io non mi ripago i costi, perché io per sì, aprire sì, un non giardino è, non è economicamente di migliaia sostenibile, di metri quadri non posso farti il menù a 100 euro perché devo metterci dentro almeno 20 persone per aprire quella villa lì. Adesso, no, no, ma è chiaro, sì, non è sostenibile. Noi abbiamo parlato tanto dei teatri che si dice, no, con Leonardo Manera, ne parlavamo tante volte. 200 posti, un teatro a 200 posti non è sostenibile, cioè economicamente è più conveniente non aprire. Il perché settore ci sono, dei teatri sono è uno tra i più flagellati. Io sono ricopro anche il ruolo di assessore alla cultura nel mio comune e questa è un'altra di quelle vergogne. Noi abbiamo teatri che hanno capienza da 2000 posti che attualmente continuano ad avere la capienza di 200. Sì. Allora non fateci andare più in aereo un seggiolino sì o un seggiolino anche. E usiamo l'asta che io sono un aereo, allora siamo tutti aerei. Oppure che sia lockdown con la giusta tutela per gli operatori, per gli imprenditori e per sì, i lavoratori. Sì, perché così dice non dire lockdown, ma di fatto è fare lockdown. Non dire lockdown vuol dire che non mi vuoi sostenere, perché in realtà non mi puoi sostenere, non mi hai sostenuto. Sì. Gli imprenditori del settore eventi, come moltissimi imprenditori di tutti i comparti, hanno chiesto aiuto alle banche e hanno chiesto il prestito dello Stato. Hanno creduto in una nuova, tra virgolette, riapertura, sempre in punta di piedi, con il massimo rispetto a lei. Si sono indebitati due volte. Sì, sì. Qua c'è da dire, poi c'è l'aspetto culturale, devo dire, Barbara Mirabella, molte persone ci scrivono, ma ancora i matrimoni, ma io mi sono sposato in due, io eravamo solo io e mio marito, i testimoni, ma chi si vuole andare, ancora sposare? Chi vuole sposarsi con chi una vuole festa fare invece una bella farlo, cerimonia insomma. Lo può fare, insomma. Io credo che bisogna avere rispetto di due cose, anche chi scrive è libero di decidere la festa che vuole, ma in mezzo alla festa ci sono i lavoratori e i fatturati delle aziende. Le aziende rischiano di fallire questa volta e non in una settimana, come verbatamente hanno chiesto i presidenti regione al governo. Rischiano di fallire oggi. Queste persone ce le ritroveremo, come già ce le troviamo alla Caritas delle nostre città, spesso sono anche piccoli imprenditori artigiani, quindi sì, possiamo anche ridere su quanto sia divertente o meno fare un matrimonio rosa o con i fiocchi. Dietro c'è un'industria. Certo. Quindi, ma quindi lei suggerirebbe piuttosto di decretare il lockdown, insomma, in modo esplicito? Almeno. Suggerisco di dire la verità e dire che se secondo il giudizio degli esperti questo è il settore, come tanti altri non lo sono evidentemente, ribadisco, il trasporto pubblico più pericoloso per la salute pubblica, ok, chiudi, dammi il lockdown e dammi immediatamente la soluzione. Mi devi dire come sostenere i lavoratori, come pagarti quel 50% di tasse che tutti gli imprenditori questo mese hanno pagato. Non dimentichiamo che tutti hanno traslato le imposte, hanno deciso di pagare il 50% subito e di dilazionare o a 12 o a 24 mesi. Quindi sì. Debiti su debiti. Cosa bisogna fare? Cosa devono rispondere gli imprenditori a queste coppie? Chiaro. Perché ora dovranno anche dare rimborsi. No, no, sì, ma infatti il settore sicuramente è in ginocchio. Io per il momento la ringraziamo, Barbara Mirabella. Come dire, prima di andare alla borsa, sono entrato in trip. Scorrono davanti a me solo dei video di Sepak Takraw. Ma vi giuro, andate a cercare. È una pallavolo 3 contro 3, il numero 1 al mondo è Anuat Chaichana, ho scoperto, e fanno delle acrobazie, cioè giocano a pallavolo 3 contro 3, non devono far cadere la palla, c'è una rete, ma giocano con i piedi, ma fanno delle rovesciate, delle cose che se ne facciamo... Come si chiama la partita sport, di calcetto? Sepak Takraw. Pensa che bello se adesso Deborah Sepak Rosciani Takraw, invece di parlare dei vari indici di borsa, parlasse del Sepak Takraw. È bellissimo. Così, cambiamo per mentre, un giorno, cambiamo. Nessuno ci sta chiamando per la sistrumpa? Sì, mi dicono, Elisabetta Fusconi dice sì, sì, sì, c'è gente che chiama per la sistrumpa. Ricordiamo, 800 24 00 24, è una lotta sarda. Voglio sapere tutto, quando nasce, chi la pratica, come si pratica. Tra poco, dopo la borsa. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. Uno, nessuno, 100 Milan. Mm-hmm. Oh Milan, là che si pronuncia si strumpa, non della si strumpa. Manera è il più bel pezzo che ho sentito da quando ti ascolto a Radio 24. Io sto ascoltando Manera con mia moglie in macchina e abbiamo deciso che ci risposiamo e vogliamo che Manera venga ad accompagnarci con il gruppo degli inadatti. Numero uno, bravissimi, siete troppo bravi. Non capisco perché questo sarcasmo nei confronti dei grandi, del grande gruppo degli inadatti. Quattro grandi musicisti: Alessandro Carlà, Stefano Melchiorre, Eugenio Mori, Marco Rampoldi. Infatti, uno Stefano l'abbiamo anche avuto spesso qui con la chitarra, ti ha accompagnato ogni tanto. Saranno quelli che verranno con noi al Teatro Manzoni qualora. È vero, perché diciamolo, al 29 novembre faremo la prima di una serie di serate. Qualora, vai, intanto spieghiamola, facciamo finta che ci siano, dai. Pompati un po'. Allora, sono serate, si chiamano O mia bella Madunina. Sono dedicate a Palermo. Esatto. Avremo un ospite significativo per Milano e la serata ruoterà intorno a questo ospite, ma con momenti di musica, comicità, col signor Milan Alessandro, che intervisterà in modo sagace questi ospiti. Sì, ma la musica degli inadatti e anche dei Duper Duke, un altro gruppo che ci sarà. Perfetto. E anche con due ballerine, Nicole e Federica. Siamo Nicole, insomma, Federica. In un assembramento. Già noi facciamo quasi 200 spettatori, 2-6, 2-8, 2-10. Solo noi siamo 10 più l'ospite. Pensa, se prendiamo una pizza in camerino già siamo, come dire, una molto cena più di una di festa, sei. Quindi verremo arrestati. Allora, 29 novembre verremo arrestati, quindi al 30 novembre non andremo più in onda. Scherziamo. Allora, mentre so tutto ormai di Sepak Takraw, no, sto guardando i video, anzi lancerai una sfida a Luchetti. Vorrei sapere chi è la nazionale campione del mondo in carica di Sepak Takraw, che ricordiamo è una specie di pallavolo, Leonardo, anche tu l'hai vista, una pallavolo 3 contro 3, però si gioca con i piedi, con una palletta piccola, e fanno delle acrobazie pazzesche per schiacciare. Mentre invece voglio sapere da Andrea da Reggio Emilia, è da Reggio Emilia ma forse è sardo di origine, non lo so. Andrea è sardo? Ci sono, non sono sardo, sono reggianissimo. Sintrumba, attenzione. La conosco, vi spiego perché la conosco, perché la Sintrumba fa parte della Federazione Italiana del Judo, lotta karate, arti marziali. Sì. C'è una volta una federazione che è la Federazione Sintrumba, e poi è stata assorbita dalla FICA. Io praticando judo, andando sul sito, guardando le arti marziali, ho visto questo nome Sintrumba, che a me pareva molto onomatopeico dal nome, ecco. Sei incuriosito, di la verità. Esatto, chissà che onomatopea ti ha suscitato, no? Sintrumba. Sintrumba, esatto, molto chiaro. Allora, ho letto, mi sono un po' documentato. Allora, è una lotta sicuramente millenaria, tradizione antichissime. Partono con una posizione simile a quella del sumo, uno di fronte all'altro, ginocchia piegate, mani sotto l'ascella, per farti capire, e poi dopo si affrontano stando in piedi. Questa lotta viene usata soprattutto per le delle feste, quindi tosature delle pecore, delle vendemmie, le arrabbiature, i matrimoni, e a volte anche una funzione di passatempo di gioco. Quindi i bambini lo praticavano. Stupendo. Quindi si assomiglia vagamente a una al judo, alla greco-romana, un po' tutte le forme di lotta, sono i colpi di anca, e finiva chi atterrava tre volte, vinceva chi atterrava tre volte o cinque volte nel corso dell'incontro avversario. Vabbè, questa era la Sintrumba. No, io devo dire, l'ho citata insieme al Sepak Takraw perché Massimo Gramellini oggi la cita è nell'elenco degli sport da contatto che sono vietati. Sicuramente sono da contatto, devo dire, più la Sintrumba, che è una specie di judo del Sepak Takraw, che c'è comunque una rete che divide. È già una certa familiarità, li citi in modo così, cito, sì, come se facesse parte del tuo quotidiano. Sì, voglio anche ricordare e salutare Anuat Chaichana, che è un po' il campione numero uno del Sepak Takraw che io seguo. Con delle acrobazie che ricordano quelle di Holly e Benji. È vero. Quando giocava nei cartoni animati, quando giocavano a calcio. Solo che quelli erano cartoni animati, questi, cioè, li vedi, fanno delle rovesciate, ma stanno in piedi, stando in piedi, poi non è che cadono sulla schiena, cioè fanno delle, non lo so, non so spiegarvelo, sono allucinato, ma in senso positivo nel guardare. Pensa se patta sacrava, sembra più Cacrav. No, Cacrav. Non storpiare il nome di una federazione mai sentita prima, peraltro. Una federazione mai. Ma c'è in Italia qualche giocatore di Sepat Cacrav? Intanto guarda che sfida Lughetti non arriva, ancora non ha scritto chi sia la nazionale campione. L'abbiamo messa in difficoltà oggi, qual è la nazionale campione del mondo di Sepat Cacrav? Sarebbe anche stupendo avere un lottatore di Sistrumpa, cioè proprio uno che la pratica. Ringraziamo Andrea da Reggio Emilia. Immagina la faccia di Miriam Lucchetti adesso a casa, starà sbuffando e starà dicendo che palle questo qua. Non avrebbe neanche torto, guarda, devo dire. Non sa neanche come si scrive, chissà cosa ha scritto per cercare la prima ricerca di Sepat Cacrav. Non lo so, l'avrà trovata in qualche modo. Va bene, comunque... Sfida Lucchetti, fa sapere, è la Thailandia, ce lo fa sapere sbuffando. Sfida Lucchetti che sbuffa, scrive, è la Thailandia campione del mondo di Sepat Cacrav. Che poi vai a fidarti di Miriam Lucchetti? No, l'ha detto a caso, figurati se è stata lì a smanettare sul computer a cercare se è lì che si sta facendo un panino con le fette, quelle del pancarré, sì, con sì. Dentro del tacchino e salsa di pistacchio. Sarebbe stupendo un giorno fare proprio il fact checking delle sfide Lucchetti, cioè verificare poi se ci dice delle cose. Noi ci fidiamo così, sì. Senza motivo peraltro. La fonte primaria, ancora prima dell'ANSA, di tutto, cioè sfida Lucchetti, cioè è così. Va bene ragazzi, sono le 10:45 minuti, dobbiamo andare al traffico, vai. Uno, nessuno, 100 Milan. Beh, ma questa la riconosci, è la mia canzone, il Lombrico Amico. Con la musica degli Inadatti. Adesso io sarò un cantante discutibile, ma loro suonano bene. Ah, ricordiamo che un giorno abbiamo fatto sentire proprio tutto il tuo excursus canoro. Comunque, sentiamo, il Lombrico Amico. Lombrico Amico. Lombrico Amico, vai! Salviamo il Lombrico, il Lombrico un amico, è un verme sincero, col cuore sicuro. Salviamo il Lombrico un amico, è risorsa vera per l'Italia intera. Salviamo il Lombrico, mi batto per lui, adesso lo sai, che più nella vita una scopola. Oh! È così, il Lombrico Amico. E con questa volevi andare a Sanremo? No, è con questa volevo andare con l'italiano col GS. Che era un pezzo anticasta, una roba. Senti qua, Lombrico Amico, vai. Suonano gli Inadatti, concentratevi sulla musica. Sì, che loro sono dei musicisti veri, insomma. Per esempio il batterista Eugenio Mori ha seguito la tournée di Biagio Antonacci, di Max Pezzali. È un turnista, un grande batterista, uno dei più bravi d'Italia. Qui si salva il fagiolo. Salviamo il corrotto, il corrotto è un amico, legume sincero, da sapore antico. Salviamo il corrotto, si fa ben volere ed è sempre pronto da cucinare. Salviamo il corrotto, mi patto per lui, adesso lo sai che anch'io nella vita non scopora. Oh! Dopo essermi dedicato per anni al sesso femminile, passando i miei giorni inutilmente a corteggiare, finalmente ho capito che nella vita c'è di meglio da fare. E poi la donna si innamora quando tu uomo difendi una causa eccezionale. Questo è il solo di Stefano Melchiorre. Sentiamo! Sono musicisti veri, c'è poco da dire. Infatti non c'è dubbio, il problema nonostante è il cantante. Nonostante il nome, gli Inadatti. Il problema è il cantante. Senti adesso. L'ombrico, un amico. Neanche i Beatles, neanche i Beatles. Salviamo il Lombrico è un amico, è risorsa vera per l'Italia intera. Salviamo il prodotto, si fa ben volere, ed è sempre pronto. Signori, anche il testo è apprezzabile. Signori, l'ombrico amico Leonardo Manera e gli inadatti. Alla fine spaccano la chitarra. Come adesso sta arrivando la fine. I veri. Con urlo finale, se non ricordo rocker. Male. E corde che saltano e chitarre spaccate sulla fronte degli spettatori. Yeah! Va bene, caro Leonardo Manera, oggi come ci allieti? Allora, avrò bisogno di una base musicale. Buonasera e benvenuti al GRA, il giornale radio allarmista. Veniamo subito alle principali notizie del giorno. Sempre più complicata la situazione nei trasporti. Le persone, quasi tutte senza mascherine, si accalcano sui mezzi pubblici che traboccano di esseri umani con probabili problemi di respirazione. Solo qualcuno sembra apparentemente sano, ma si tratta di asintomatici temporanei che potrebbero facilmente trasmettere la malattia anche a tutti gli altri. Allora meglio evitare i mezzi pubblici, anche per evitare la possibilità crescente di incidenti che qualche autista non più lucido potrebbe facilmente provocare. Ricordiamo che chi usa i mezzi pubblici rischia seriamente il contagio. Meglio andare a piedi indossando la mascherina anche quando si è soli, perché l'aria trasporta il virus anche nei polmoni più sani. Fallisce anche la sperimentazione su alcuni dei più promettenti vaccini. Quasi un anno di tentativi non ha portato a nessun risultato definitivo, nonostante nella sperimentazione si fossero cimentate anche alcune delle più note cause farmaceutiche. Segno che il Covid è una malattia molto difficile da arginare, soprattutto una malattia alla quale è quasi impossibile porre rimedio per via farmacologica. Si va per tentativi con farmaci obsoleti che non di rado possono creare seri effetti collaterali più gravi del virus stesso. Spesso ingerendo quei farmaci si muore, ma d'altra parte si muore anche senza farmaci. Insomma, questo è un periodo in cui si muore sempre. Crescono anche in misura esponenziale i nuovi positivi, che ormai sono quasi giunti a quota 10.000 al giorno, come il numero di abitanti di una intera piccola cittadina che da un giorno all'altro potrebbe essere rasa al suolo. Aumentano i ricoveri, le terapie intensive sono già quasi al collasso e siamo solo ad ottobre, e anche i medici che dovrebbero occuparsi dei malati sono ormai vicini alla resa, colpa della movida alla quale i giovani italiani in modo irresponsabile non riescono a rinunciare. Ma ricordate, cari giovani, che il coronavirus da un momento all'altro potrebbe colpire anche voi con la precisione di un cecchino, causandovi danni irreversibili, e a quel punto sarà inutile andare a piangere dalla mamma, perché nel frattempo avrete infettato anche lei e non sarà più in grado di darvi nessun conforto. Cresce il virus anche in tutta Europa, in Inghilterra, Gran Bretagna e Regno Unito. Il virus non fa sconti. In Francia miete vittime con una falciatrice in un campo di grano. In Spagna non si sorride più neanche per caso. Il Belgio, a causa del virus, sta per scomparire dalle carte geografiche, mentre in Russia si respira un clima più plumbeo di quello delle purghe staliniste, perché il virus non ha confini e si abbatte su tutti con la stessa virulenza, e non c'è via di scampo, perché qualsiasi confine cerchi di varcare il virus ti raggiunge. Il virus non conosce frontiere. Nuovi sacrifici saranno necessari. Quest'anno non si festeggerà il Natale, non si mangerà il panettone, o forse solo quello senza uvetta, perché l'uvetta potrebbe trasportare il virus, e perfino la culla di Gesù Bambino, se non sanificata a dovere, potrebbe rimanere vuota. La colpa è di tutti quelli che non hanno saputo rinunciare alla bella vita e hanno voluto muoversi avanti e indietro per tutto il paese, conoscere persone perfino avendo rapporti sessuali con sconosciuti o conosciuti da poco. Mai avere rapporti sessuali con persone con le quali non si erano già avuti rapporti sessuali in precedenza, e comunque anche quando si hanno rapporti sessuali meglio tenere la mascherina e anche le mutande. Per finire, ricordiamo che nell'ultimo DPCM si sconsigliano fortemente ricevimenti a casa con più di 6 persone, perché la settima potrebbe essere quella fatale. Nei matrimoni ricevimenti mai più di 30 persone, perché la 31esima potrebbe essere quella fatale e letale, che vi porterebbe inevitabilmente nei cunicoli più insidiosi della malattia. Termina qui il GRA, il giornale radio allarmista. Arrivederci alla prossima edizione e grazie per l'attenzione. soprattutto per l'attenzione. Sei più rassicurante dei veri TG, ci scrive l'ascoltatore. Questo può essere vero. No, io mi scuso con Vincenzo da Mantova, ma il lombrico amico ci ha tolto. Ma abbiamo tempo, chiudiamo no, 54 e mezzo. Ma sei no, tu che non vuoi fare 54, intervenire. Mancano non 20 vuoi far secondi. Intervenire Vincenzo da Mantova perché domani... probabilmente aveva un'opinione diversa dalla tua, diversa dalla tua. Domani, se è paziente, lo recuperiamo. Guarda, mancano 15 secondi solo per dire che la Thailandia è in testa al palmarès del Sepak Krav con 39 ori, un argento ai campionati del mondo, e al secondo posto il Vietnam con 4 ori. È la scienza infusa che ho. No, in realtà è la sfida Lucchetti. Va bene, ci dobbiamo fermare, a domani. Domani alle 9, domani mattina alle 9, no, alle 10 a me! Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.